padre Leopoldo Mandis di Padova era stato invitato all'età di 68 anni, invitato a partecipare ad un pellegrinaggio a Lourdes e c'era chi gli pagava tutto quello che occorreva. Non gli sarebbe mancato nulla, ma che andasse. Il grande confessore di Padova, che ha confessato per quasi 40 anni, ore e ore, era diventato proprio il rifugio dei peccatori. E ci andò e stette a Lourdes quei 2-3 giorni, come si suol fare di solito, vero? E stette qualche momento, perché lo fecero lavorare molto, anche là per le confessioni, comunque qualche respiro l'ha avuto anche lui e si trovava davanti alla grotta di Massabielle, la grotta della Madonna, in atteggiamento molto attento, molto devoto. Al termine del pellegrinaggio ci fu chi si avvicinò a padre Leopoldo, sant'uomo, santo Leopoldo Mandis, e osò chiedergli: padre Leopoldo, ma le ha detto proprio niente la Madonna quando lei ha avuto quei tratti di tempo per stare là davanti a quella fatidica grotta? Le ha detto proprio niente la Madonna? E lui tirò fuori un bigliettino di sotto la talare francescana e sapete cosa mi ha detto? Che devo ricominciare tutto da capo. Che devo incominciare tutto da capo, ma ho 68 anni e la Madonna mi ha detto: torna indietro, devi rifare tutto, tutto da capo. E me l'ha ripetuto, voleva proprio assicurarsi la Madonna che avevo capito, che non dovevo lusingarmi, ho 68 anni, la mia parte l'ho fatta, no. Mi ha ripetuto: torna indietro, ricomincia da capo, da capo. E quella parola non la dimentico più. La provvidenza divina gli concesse ancora degli anni di vita. Che padre Leopoldo visse con l'entusiasmo di un novizio, di un seminarista pieno di fervore, di un prete novello. Ma i giorni passavano e invecchiava, sì, invecchiava il suo corpo, ma lo spirito, l'anima di padre Leopoldo era l'anima di un gigante che si infervorava, si entusiasmava di mano in mano che saliva verso il valico. Ricomincia da capo tutto. Ma come se nel passato avesse tutto sbagliato. No, non intendeva dire così la Madonna. E chi non sapeva quanto era innocente, trasparente nell'anima, rifugio dei peccatori, ma lui innocente come l'agnello. Eppure doveva, tornato da Lourdes, ricominciare da zero, da capo. Da capo, vuol dire proprio da principio, da capo. Dimenticando che aveva 68 anni, come ne avesse 8 anni, fosse per la prima comunione, come fosse prete novello, 25 anni, come se non avesse ancora detto messa, avesse mai assolto nessuno, avesse mai predicato, da capo. Guardate che questa parola la Madonna la dice a me questa mattina per voi. Ricominciate da capo, ricominciamo da capo. Ma io ho una certa età, ho certe abitudini tristi contro le quali ho combattuto, ma me le sento ancora addosso. Ricominciamo da capo.